Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi si addentra nella cultura dell'hip hop, nata a New York negli anni 70 come forma di espressione delle minoranze del Bronx, è diventata nel giro di qualche anno un fenomeno mondiale, capace di rivoluzionare la musica, la moda, il costume, l'arte, persino la cronaca. Già la cronaca. I destini dei protagonisti di oggi, indissolubilmente legati tra loro, intrisi dei marchi distintivi della cultura di appartenenza, sono tragicamente finiti sulle prime pagine dei giornali, mostrando a tutti il lato perverso dell'hip hop, fatto di aggressività incontrollata e pericolosi eccessi. Dai, andiamo, bello. Come ti senti? Ci sto dentro. Ci stai dentro? Sì. Sicuro? Sono pronto. Fogli vedere. Sono pronto, baby. Ti voglio vedere che li squarti, va bene? Fagli vedere chi sei a quei bastardi dentro. Sei solo tu, baby. Il 313, sei solo tu. Nato come forma di sublimazione della violenza, da sempre l'hip hop ha a che fare con l'idea di competizione. Ci sono delle vere e proprie gare tra MCs, ovvero tra coloro che mettono in rima le proprie esperienze. Ci sono le battaglie tra DJ a colpi di scratch, le esibizioni di breakdance e c'è persino il fenomeno del graffitismo, generatosi e poi cresciuto in parallelo al lato più prettamente musicale della cultura hip hop, tutto ugualmente intriso del desiderio di mettersi alla prova, di misurare le proprie abilità sfidando quelle altrui, canalizzando il desiderio di rivalsa all'interno di una nuova forma di espressione artistica. Partita da quartieri difficili, tuttavia, la sana competizione ha dovuto fin da subito fare i conti con la spasmodica corsa al benessere e ai soldi, segni indicatori della posizione faticosamente conquistata. L'ostentata, spesso addirittura ridicola opulenza cui i rapper ci hanno abituati nel corso degli anni, non è altro che un modo per rimarcare le proprie vittorie. Più ancora del successo è il denaro, il vero bottino. Le storie dei nostri personaggi sono inevitabilmente segnate dall'avidità e dalla rapacità dell'universo cui appartengono. Basti pensare che negli anni 90 l'hip hop, nato come sublime espressione della street culture, si è trasformato in un sontuoso e lucrativo mercato di respiro internazionale. Le case discografiche fanno a gara per accaparrarsi il talento degli MCs più quotati, trasformati in star capricciose ed esigenti, perennemente irretite dal fascino dei soldi. E proprio nel regno dei soldi, nella capitale mondiale del vizio, che prende il via la storia di oggi. Se per noi si tratta di un inizio, per il nostro primo protagonista è invece il resoconto della fine. Siamo a Las Vegas, è la sera del 6 settembre del 1996 e all'MGM Grand si è appena tenuto l'incontro di boxe tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Tra il pubblico accorso ad assistere all'evento c'è un giovane rapper di successo, un 25enne già assurto agli onori delle cronache sia per meriti discografici che per intemperanze di vario genere. Nonostante la giovane età, nel panorama del hip hop è già un mito. È il fulcro, il vessillo, il rappresentante dello stile della West Coast. Il suo nome è Tupac Shakur. Tupac Shakur. Quella sera Tupac si sta allontanando in auto dal casinò. Percorre la Strip, celeberrimo e strabiliante corridoio di perdizione, incastrato con le sue luci accecanti, le sue infinite promesse nel bel mezzo del deserto del Nevada. All'improvviso si scatena il finimondo. Shakur è stato ucciso con 4 colpi d'arma da fuoco mentre stava lasciando l'incontro di box di Mike Tyson, che si è tenuto questa sera a Las Vegas. L'auto era guidata da Suge Knight, proprietario della casa discografica per cui lavora Tupac, la Death Row Records. I colpi sono partiti da una Cadillac che si è improvvisamente avvicinata alla BMW di Knight. La polizia attualmente sta effettuando tutti i rilevamenti necessari. Tupac, l'idolo della West Coast, la gallina dalle uova d'oro in forze alla Death Row Records, celebre etichetta rap fondata da Suge Knight e da Dr. Dre, morirà 6 giorni più tardi allo University Medical Center di Las Vegas. Prima di addentrarci negli oscuri meandri di questa vicenda, della lotta tra le gang losangeline e di quella più grande tra i rapper della West Coast e quelli della East Coast, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere dal principio la vita di Tupac Shakur. La sua storia, contrariamente a quanto si potrebbe credere, inizia nel supremo baluardo della costa atlantica, New York City. Siamo ad Harlem, il cuore nero di New York. È qui che Tupac Amaru Shakur nasce il 16 giugno del 1971. La madre, Afeni Shakur, sceglie il nome ispirandosi alla figura di Tupac Amaru, rivoluzionario peruviano che alla fine del Settecento guidò la rivolta della popolazione indigena contro i colonizzatori spagnoli. I grandi temi sociali e politici sono all'ordine del giorno per Tupac. La madre è un'attivista delle Pantere Nere, storica organizzazione rivoluzionaria afroamericana. La madre di Tupac, insieme agli altri membri delle Pantere Nere, vorrebbe rendere migliore il mondo in cui crescere suo figlio. Sono gli anni 70. È lecito essere arrabbiati, così come è lecito sperare in un futuro migliore. Figlio unico di una ragazza madre, Tupac conserverà per tutta la vita un rapporto speciale e indissolubile con colei che l'ha messo al mondo e l'ha cresciuto nonostante tutte le difficoltà. Il nome che lei gli ha dato richiama idee rivoluzionarie, evoca un destino da guerriero, da vero combattente. È lui stesso a parlare di quanto sia radicata nel suo essere l'idea della lotta, che poi è anche una delle componenti fondamentali della cultura hip-hop. La lotta per uscire da una condizione di disagio, la lotta buona tra MCs e la lotta cattiva tra gang rivali. Sono tutte facce, per quanto contrastanti, della stessa medaglia. Le mie radici per quel che riguarda la lotta sono davvero profonde. Tupac ha ragione. La sua lotta ha radici quasi ancestrali ed è cominciata ancor prima di nascere, quando la madre incinta viene arrestata nel corso di una manifestazione delle Pantere Nere. È ancora lui a parlarcene. Un mese dopo il suo rilascio, mia madre mi diede la luce. Sono stato coltivato in prigione. Il mio embrione era in prigione. Le parole di Tupac risuonano stranamente profetiche. Il giovane non tarderà troppo a riprovare l'ebbrezza della vita dietro le sbarre e questa volta non ci sarà più il filtro del ventre materno ad attutire la sensazione di disagio. Ma è ancora presto per parlare dei suoi guai giudiziari. Nel 1986 il quindicenne Tupac si trasferisce con Afeni a Baltimore, nel Maryland. È qui che l'adolescente fa i suoi primi bruschi incontri con il vero disagio sociale. È difficile per una madre sola riuscire a tenere lontano il figlio dalla vita di strada. Baltimore ha il più alto tasso di gravidanza tra teenager, il più alto tasso di AIDS nella comunità nera, il più alto tasso di teenager che ammazzano teenager, il più alto tasso di neri che ammazzano neri. Questo è quel che succede a Baltimore, Maryland. E questo è il posto dove siamo venuti a vivere. La realtà della strada è dura, ma adesso Tupac è ancora un ragazzino. E per fortuna sono altre le cose che lo interessano. Quando ero piccolo ero tranquillo, praticamente un angelo. Leggevo un sacco, scrivevo poesie e tenevo anche un diario. Guardavo tanta televisione e fingevo di essere parte di quei mondi che vedevo lì, dentro lo schermo, imitando i personaggi. Ad un certo punto ho cominciato a pensare, se magari anch'io potessi recitare, riuscirei ad essere felice come loro. Affascinato dall'idea di poter vestire i panni di qualcun altro, Tupac inizia a frequentare la School for the Performing Arts di Baltimore. Per 2 anni studia con passione canto, ballo, recitazione. Fuori dalle rassicuranti mura della scuola, però, la sua resta la vita difficile di un ragazzo di colore che vive in un quartiere degradato. I suoi compagni di classe sono in maggioranza bianchi e lui si sente irrimediabilmente diverso da loro, anche se non dovrebbe. La criminalità di cui hanno paura i bianchi è la stessa di cui hanno paura anche i neri. Solo perché noi viviamo accanto alla casa di un killer non vuol dire che non siamo brave persone. E anche noi, come loro, avremo bisogno di protezione. Nel 1988 la madre di Tupac decide di trasferirsi nuovamente. La meta è Marin City, California. Anche qui Tupac ha modo di sperimentare, ancor più che a Baltimore, le condizioni di difficoltà vissute dalla popolazione di colore. Anche madre e figlio vivono questa dura situazione. È praticamente inevitabile che nel ragazzo, così come era stato in gioventù per Afeni, si risveglino dei moti d'orgoglio e di rivalsa. Tupac, però, non si iscrive a un partito e non diventa nemmeno un attivista politico. Quello che sceglie di fare è unire il suo slancio verso i temi sociali alla sua passione per le arti. Tupac non parlerà semplicemente del suo disagio, ne canterà. Fathers of his country never cared for me. They kept my ass at the shackles of slavery. And Uncle Sam never did a damn thing for me. Said lie about the fact in my history. Canalizzare la rabbia, il senso di inadeguatezza e quello di rivalsa nella forza dirompente del hip hop. Un genere perfetto per lo scopo, pervaso com'è storicamente della potenza espressiva che nasce dalla necessità di sopravvivere in un ambiente ostile. Per Tupac si tratta di energia positiva. Ancora non può immaginare che il suo ingresso nell'universo del hip hop sarà carico di pesanti conseguenze. Il primo album di Tupac, Tupacalypse Now, è apertamente orientato verso il dibattito politico e la denuncia sociale. Affronta attraverso le sue rime problemi come il razzismo, la brutalità della polizia, il disagio giovanile connesso soprattutto all'uso di droghe. È il 1991 e con Tupacalypse Now il ventenne Shakur entra con prepotenza nel panorama del hip hop, dando a tutti la possibilità di osservare, attraverso la vividezza dei testi delle sue canzoni, il mondo di un ragazzo di colore che vive nelle strade degli Stati Uniti. Partito da New York e approdato in California passando per il Maryland, in appena 20 anni Tupac può certamente dire di averne viste di strade. Ascoltando le mie canzoni ti accorgi di come io passi davvero la maggior parte del mio tempo nelle strade. Perché le parole che io pronuncio non vengono dalla bocca di una mammina o di un paparino, ma vengono da una prostituta o dal suo protettore o dallo spacciatore all'angolo. Per me erano questi i modelli. Perfino l'esempio, il buon esempio materno, in quel periodo viene meno. Afeni è sopraffatta dalle difficoltà e cerca un effimero conforto nella droga. Mia mamma era completamente persa in quel periodo. Si faceva di crack. È stata molto dura, perché lei era il mio mito. Tupac ormai è solo. La madre non è più in grado di proteggerlo e deve trovare autonomamente la propria strada. Inizia a frequentare la gente poco raccomandabile di cui parla nelle sue canzoni, ispirandosi sempre più alla cosiddetta Thug Life, la vita da bandito, che darà il titolo al suo album del 1994, Thug Life Volume 1, celeberrimo esempio del gangsta rap. Lo stesso Tupac sembra essersi trasformato in un delinquente coi fiocchi. Proprio in quell'anno subisce un processo per stupro scaturito dalle accuse di una sua fan 19enne. Alla fine di novembre Tupac è a New York in attesa della sentenza. In quei giorni, mentre aspetta il verdetto, non sta certo con le mani in mano. La sera del 30 novembre si trova ai Quad Recording Studios di Manhattan insieme al suo manager e ad alcuni amici. Devono registrare un pezzo, ma qualcosa va storto. Tre uomini armati fanno irruzione nello studio, costringono tutti a sdraiarsi a terra e a consegnare gioielli e oggetti di valore. Quindi si accaniscono su Tupac, sparandogli più volte con una 9 mm. Billy Garland, ex membro delle Pantere Nere e padre biologico di Tupac, ricorda quei momenti. Mi hanno sparato a varie parti del corpo, alla testa, alle braccia e dicevano di avergli sparato anche ai testicoli. Quando sono andato a trovarlo, la prima cosa che ha fatto è stato farmi vedere che gli avevano sparato ovunque, ma non ai testicoli. Tupac sopravvive per miracolo. Appena uscito dalla sala operatoria, inizia a lanciare accuse a destra e a manca, convinto che la storia della rapina sia semplicemente una messa in scena architettata ad arte per coprire qualcosa di ben più grosso. Si sa che l'hip hop è fatto di rivalità, di competizione, di costante lotta per emergere. E proprio in quello stesso periodo, un altro artista sta lottando per raccontare le sue storie, le sue difficoltà, i suoi desideri. Il padre di Tupac ricorda di averlo visto nei corridoi dell'ospedale dopo l'attentato, preoccupato per la salute di quello che agli occhi di tutti dovrebbe essere un suo acerrimo nemico, poiché rappresentante della East Coast. Si è presentato, ho trovato che fosse una persona gentile. Non sembrava davvero avere nulla a che fare con quello che era appena successo. Io non avevo idea di chi fosse all'epoca e lui si è semplicemente avvicinato e mi ha detto di essere Biggie e di sapere che io ero il padre di Tupac. Voleva essere d'aiuto in qualche modo e mi ha detto di non esitare a chiedergli qualsiasi cosa. Questo ragazzo, il cui soprannome è Biggie, è il nostro secondo protagonista di oggi. Anche lui, la sera del 30 novembre, sta lavorando presso i Quad Recording Studios di Manhattan insieme al suo produttore, Puff Daddy, e ad alcuni membri del loro entourage. Sulla copertina del primo disco di Biggie, uscito da appena un paio di mesi, campeggia la scritta che riporta il suo nome d'arte, il nome con cui ama farsi chiamare. The Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G. Lui e Tupac si conoscono, si frequentano, fanno parte dello stesso universo, quello dell'hip hop. Hanno molte cose in comune. Sono cresciuti in contesti difficili, sono praticamente coetanei, entrambi proiettati verso un futuro fatto di successi discografici, denaro ed eccessi. Tupac e Biggie sarebbero buoni amici se non fosse per le logiche e i cliché del hip-hop che li vogliono trasformare a tutti i costi in acerrimi rivali. Sembrerebbe che qualcuno, per fomentare questa supposta guerra, abbia inscenato l'attentato a Tupac, spingendo la vittima a fare pesanti accuse contro Notorious B.I.G. In quella fredda giornata del 1994, la lotta tra Tupac e Biggie, tra West Coast e East Coast, è appena cominciata. A Destini Incrociati siamo a metà degli anni 90, il periodo più fulgido e al contempo più buio per la musica hip-hop. Nata come espressione delle minoranze e come valvola di sfogo della rabbia repressa dei quartieri difficili di New York, la cultura dell'hip-hop si è diffusa in tutti gli Stati Uniti fino alla California, dove Tupac Shakur è il re indiscusso. A New York, invece, un altro artista sta conquistando il plauso del pubblico. Il suo nome è Notorious B.I.G. Tupac e Biggie, ragazzi simili sotto moltissimi punti di vista, si ritrovano invece a rappresentare per gioco o per davvero due realtà fortemente contrapposte. Se Notorious B.I.G. si è appena affacciato alla ribalta dell'hip hop, Tupac al confronto è già un veterano al suo terzo disco. Insieme al successo, Shakur sta collezionando anche una serie di esperienze ai limiti della legalità e della sopravvivenza. È miracolosamente scampato a una cinquina di pallottole, ma sta ancora aspettando il verdetto del processo che lo vede imputato con l'accusa di stupro. Tupac Shakur has been sentenced to a maximum of 4.5 years in prison for sexually abusing a fan. Tupac Shakur è stato condannato ad una pena di 4 anni e mezzo di detenzione per aver molestato sessualmente una sua fan. Il reato era stato commesso a New York. Il rapper 23enne ha spesso mostrato accessi di violenza nel rapido progredire della sua carriera. Tupac deve scontare la sua pena nel Clinton Correctional Facility di Dannemora, nello stato di New York, lontano dall'assolata West Coast e da tutto quello che essa rappresenta. Il periodo che trascorre in carcere non fa altro che accrescere in lui la rabbia per l'attentato subito. L'odio si incanala verso Biggie, Puff Daddy e in generale verso gli esponenti della East Coast. Le sue parole sono piene di astio. Mentre stavo in galera, certa gente che nemmeno conoscevo mi diceva: ma come? Non lo sai? È stato Biggie a spararti, bello. Perché ce l'avevano con me? Ed ora sai che faccio? Io li distruggo. Li distruggo tutti. È impossibile capire se quello di Tupac sia davvero un odio viscerale oppure si tratti in qualche modo di una recita della sua prova d'attore nei panni del rapper ferito e scontroso. La vecchia passione di Shakur per la recitazione di certo confonde le carte. E i cliché dell'hip hop impongono l'ostentazione dello scontro, la mistica della competizione, la battaglia a ogni costo. In ogni caso, che si tratti di vero odio o di una montatura, Notorious B.I.G. continua a proclamarsi innocente e tenta in ogni modo di restare al di fuori dello scontro, nella convinzione che alimentandolo si arriverà semplicemente a un peggioramento della situazione. Io me ne stavo sulle mie, mi dicevo: tieni la bocca chiusa, Big, non infilarti in questo casino, perché se ti ci infili non farà altro che ingrossarsi, capito? Sapevo che quelle voci non erano vere, sapevo di essere accusato di cose che non avevo fatto e non sapevo altro. Io non ero là quando è successo, io non c'entro niente. Non ha senso che io sia qui a tentare di lavorare ai miei dischi mentre mi tocca andare in TV e sui giornali a discolparmi. Sono tutte cazzate! Biggie è all'inizio della sua carriera e vorrebbe occuparsi soltanto dei suoi dischi senza dover badare necessariamente agli screzi con un altro rapper. Ha già vissuto anni difficili, il cui ricordo è ancora fresco, vista la sua giovane età. La musica adesso è la sola cosa che conta. Ma come è arrivato Notorious B.I.G. a occupare una posizione di assoluto rilievo nel panorama dell'hip hop? Per scoprirlo, facciamo un passo indietro. Prima di essere chiamato Biggie, Biggie Smalls o Notorious B.I.G., il nostro secondo protagonista di oggi era semplicemente noto come Christopher Wallace. Nato a Brooklyn il 21 maggio del 1972 da una donna di origini giamaicane, come Tupac passa l'infanzia facendo i conti con l'assenza di una figura paterna. È proprio la madre, Voletta Wallace, a ricordare quei momenti. I loved my baby. Amavo il mio bambino. Il nostro rapporto era molto speciale, perché eravamo noi due soli, mio figlio ed io, il mio Christopher ed io. My Christopher and me. Biggie si merita questo soprannome in virtù della sua mole. Da ragazzo è alto più di 1,85 m e arriva a pesare 135 kg. Un enorme ragazzo, destinato a un enorme successo. Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi, smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. Christopher Wallace, soprannominato Biggie, cresce in una realtà che somiglia incredibilmente a quella in cui è diventato grande Tupac Shakur. Li separano giusto poche miglia e il ponte di Brooklyn. Voletta Wallace, così come succede ad Afeni Shakur, si fa carico di tutte le esigenze del figlio. Ero una mamma che lavorava. Gli ho sempre fatto avere dei vestiti addosso e del cibo sulla tavola. Non ero certo ricca né benestante, però avevo un grande cuore. Nonostante gli sforzi, però, è difficile tenere Christopher lontano dalla dura realtà del quartiere in cui vive. La strada non è affatto gentile. La strada non ti accoglie a braccia aperte. La realtà di Bed-Stuy, contrazione di Bedford-Stuyvesant, la piccola porzione di Brooklyn in cui Christopher cresce, non è affatto facile. Non è certo il posto ideale in cui crescere i figli negli anni Ottanta. Voletta cerca di fare del suo meglio per instradare il suo ragazzo su un sentiero diverso da quello delle gang, fatto di spaccio, rapine e soprattutto di violenza. Il richiamo della strada, però, è irrinunciabile per un ragazzino di quell'età e Christopher non è certo immune. Quale ragazzino vuole a quell'età restare in casa con una donna di 35 anni che per giunta è sua madre? Io non stavo giocando d'azzardo, non stavo sperimentando gli alcolici o sigarette o la marijuana o chissà cosa. Chissà invece che cosa combinavano loro qui fuori. Appena adolescente, Christopher si unisce alla gang sotto casa. Gli viene affibbiato il soprannome di Big e comincia a inserirsi nei loschi traffici tipici dei quartieri disagiati. Un po' di spaccio, un po' di traffico di armi, cose comuni in una realtà come quella di Bed-Stuy. Prima dei 14 anni era semplicemente un figlio, il figlio che ogni madre avrebbe voluto avere. Poi, a 14 anni, è diventato Notorious. L'appartenenza a una banda non è certamente quello che una madre sogna per il proprio figlio. È proprio Voletta, forse inconsapevolmente, a indirizzare Christopher verso quello che sarà il suo futuro. È con le parole che lui sarà in grado di farsi strada e dimostrare al mondo il suo valore. Se qualcuno ti colpisce, tu digli no. Guarda in faccia la persona che ti ha colpito e dille di non provare mai più a toccarti, perché potreste farvi male. Gli ho sempre detto di usare le sue parole, l'ho incoraggiato ad esprimersi attraverso le parole, perché se non dici la tua, nessuno saprà mai come ti senti davvero. Biggie riesce a tirarsi fuori dal giro che in breve tempo, con tutta probabilità, lo avrebbe portato a rovinare per sempre la sua vita. Meglio incanalare il disagio e il bisogno di competizione nelle gare di freestyle sotto casa, anziché nelle battaglie tra le gang. Dalla realtà delle battaglie tra MCs agli angoli delle strade, nel giro di poco tempo Big passa a registrare alcuni demo con uno dei DJ della zona, come lui stesso a ricordare. Io e il mio amico DJ 50 Grain ce ne stavamo chiusi in uno scantinato a registrare roba. Uno di questi demo cattura l'attenzione di un giovanissimo produttore, il presidente della neonata Bad Boy Records, Sean Combs, in arte Puff Daddy. È la primavera del 1994 e mentre sulla West Coast gli amanti del hip hop adorano Tupac Shakur, dalle parti della East Coast una nuova stella è pronta a entrare ufficialmente nel firmamento della musica. È la stella di Notorious B.I.G. Il suo album d'esordio, Ready to Die, balza immediatamente in testa alle classifiche. In un momento in cui la West Coast domina nettamente il mercato, l'avvento di Biggie è una vera rivoluzione. Pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't think shit, stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right. Biggie there, A-Light. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch. Stick. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi si parla di hip hop e della rivalità tra East e West Coast, rispettivamente incarnate da Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Due coetanei, due ragazzi cresciuti in realtà difficili, ma che sono riusciti, grazie alla passione per il rap, ad accedere all'Olimpo delle classifiche dei dischi più venduti. Nati nella stessa città, New York, culla del hip-hop come espressione del riscatto delle minoranze, accomunati dall'età e dalle difficoltà vissute negli anni dell'adolescenza, inizialmente i due sono amici. Il 30 novembre del 1994, però, Tupac scampa miracolosamente a un attentato che sembra orchestrato proprio dal suo amico e al contempo rivale Notorious B.I.G. È un episodio che Tupac non riesce a mandare giù. Il mio motto è diventato «Non fidarti di nessuno». Nel 1995 Shakur si trova in carcere, dove sta scontando una pena per violenza sessuale ai danni di una sua fan. Suge Knight, fondatore della Death Row Records, casa discografica specializzata nel gangsta rap, tipico della West Coast, paga una cauzione di $1.5 million per tirarlo fuori di prigione. In cambio di questo favore, Tupac firma immediatamente un contratto con la Death Row, di cui diventa l'artista di punta. Tupac esce di prigione più forte, più motivato e più celebre di prima. Suge Knight sembra divertirsi a fomentare il lato insofferente, corrosivo e violento di Tupac. La battaglia tra East e West Coast fa vendere milioni di dischi e il produttore non ha nessuna intenzione di rinunciare a un'opportunità così ghiotta. Sputare sui giornalisti e sui rivali sembra essere diventato il passatempo preferito di Tupac Shakur. Anche la musica comunque lo tiene occupato. Nel 1996 pubblica il suo primo disco con la Death Row dal titolo All Eyes on Me. È il primo doppio album con materiale originale nella storia dell'hip hop. Il singolo California Love, realizzato con la collaborazione di Dr. Dre, resta uno degli esempi più celebri dello stile della West Coast. Milioni di dischi venduti, un successo straordinario. Tupac è la superstar della Death Row in continua ascesa. La reputazione della casa discografica guidata da Suge Knight è equamente ripartita tra gli ammiratori, estasiati dal fiuto di Knight e dalla sua abilità di rilanciare la carriera di Tupac, e detrattori, convinti che lo stesso Knight sia arrivato tanto in alto solo grazie al traffico di droga, di armi e alla compiacenza della polizia di Los Angeles, come racconta l'ex detective Russell Poole. Credo che il fatto che certi membri delle forze di polizia lavorassero per la Death Row, beh, questa cosa costituisce uno scandalo di per sé. Il fatto che lavorassero per dei gangster, noti criminali, e in generale per il crimine organizzato, non era certo un segreto il fatto che la Death Row fosse coinvolta nel traffico di stupefacenti. Suge Knight, l'uomo più potente e controverso del panorama hip-hop della metà degli anni 90, è colui che sta seduto sul sedile del guidatore la sera del 7 settembre 1996 a Las Vegas. Su quello del passeggero, invece, c'è la sua gallina dalle uova d'oro, Tupac Shakur. Quella sera, un killer misterioso spara 4 volte a Tupac attraverso i finestrini dell'auto. La morte, vista sotto le luci accecanti e fasulle della strip, fa uno strano effetto. Costringe a ripensare al passato, a chiedersi se valga la pena di immolare una vita sull'altare della fama e del denaro. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but cheap downs fair. And I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. La morte di Tupac Shakur sconvolge terribilmente il mondo del hip-hop. Notorious B.I.G. è incredulo. Io soffro più di chiunque altro. È stata davvero una perdita terribile, una grossa perdita. E non solo per la sua famiglia. La vita e la carriera di Biggie, però, devono andare avanti. L'uscita del suo secondo album, Life After Death, è prevista per il 25 marzo del 1997. L'universo del hip-hop si è ormai trasformato in una gigantesca e inarrestabile macchina sforna successi e sforna banconote. Fermarsi troppo a riflettere sulle possibili conseguenze negative del business non è nell'interesse di nessuno. A fine febbraio del 1997, Biggie va a Los Angeles, nel cuore pulsante del supposto territorio nemico, a promuovere il disco di imminente uscita. È stanco di combattere con la West Coast, una guerra che non gli appartiene, forzatamente alimentata dai produttori allo scopo di vendere di più. One man against one man. Un solo uomo contro un altro uomo fanno sì che l'intera West Coast odi l'intera East Coast e viceversa. Tutto questo è assurdo. Io devo mettere fine a questa cosa. Devo usare il potere che ho sulla gente per fermare tutto questo. La sera dell'8 marzo partecipa a una festa organizzata dalla rivista Vibe. Il party è gremito, tanto che la polizia decide di sospenderlo causa sovraffollamento. Biggie lascia il locale e sale in macchina per tornare all'albergo. La strada è intasata dalle persone che lasciano la festa e le auto sono costrette a procedere a passo d'uomo. Una Chevrolet in pala nera si affianca lentamente all'auto di Wallace. Il conducente, un afroamericano elegantemente vestito, abbassa il finestrino e spara 4 colpi nel torace del rapper con una pistola 9 mm. Biggie viene trasportato immediatamente al Cedars, Sinai Medical Center, dove viene dichiarato morto all'1:15 del 9 marzo. La dinamica di questo delitto, così come quella del delitto di Tupac Shakur, resta tuttora irrisolta. L'ex detective Russell Poole, sollevato dall'incarico di indagare sui sospetti che si celano dietro alle morti dei due rapper, solleva l'ipotesi che la vendetta di un simpatizzante della West Coast per quel che riguarda l'omicidio di Notorious B.I.G. non sia altro che una montatura. In sostanza questo è quel che sembra, una rappresaglia. Credo che Suge Knight fosse contento che la si vedesse così. Ma se noi fossimo stati in grado di investigare più a fondo, se avessimo avuto il coraggio di connettere i due omicidi e studiare il caso approfonditamente, credo che ora sapremmo molte più cose. Il potentissimo Suge Knight, di fatto, potrebbe avere un ruolo molto più importante, anzi più inquietante, nella dinamica del duplice omicidio. Circolano voci che Tupac volesse rescindere il suo contratto con la Death Row. Suge Knight avrebbe forse scelto di punirlo a colpi di pistola e avrebbe poi cercato, qualche mese più tardi, di sviare i sospetti colpendo anche Biggie e facendo sembrare l'intera vicenda una questione di onore tra gang rivali. Una stupida, insulsa guerra tra fazioni, buona per vendere dischi e ottima per mettere fine alle vite di due ragazzi poco più che ventenni. È difficile non percepire l'amarezza tra le parole della mamma di Biggie. So that's where the East Coast, West Coast... È così che è nata la diatriba tra East e West Coast. A tutti faceva comodo essere famosi. Tutti correvano dai giornali a raccontargli le loro storielle. Tutti hanno cominciato a montare questa faccenda sulla East Coast e sulla West Coast. Puffy di qua, Suge Knight di là, Biggie era l'East Coast, Tupac la West Coast e così via. È assurdo. Si giocava con le vite delle persone. Ed è proprio questo che è successo. Le vite di due persone si sono perse. A causa di cosa? Stupidity? Della stupidità? Una guerra tra produttori ha stroncato le vite di due ragazzi nati là dove l'hip hop stesso è nato. La loro era una vocazione profonda, fermata dalle lusinghe della fama e del denaro. My son is a poet, was a poet. Mio figlio è un poeta. Era un poeta. Era uno scrittore. E sarebbe stato il primo a dire che scriveva quel che vedeva. Scriveva e faceva rap sulla base di quel che sentiva. Le esperienze delle persone, le sue esperienze. Era spazzatura? Può darsi che certe cose lo fossero, ma era la vita ad essere uno schifo. La vita lì fuori. Ed era qualcosa che lui credeva andasse raccontato. Due amici, due persone che avevano moltissimo in comune, sono state usate e messe l'una contro l'altra, fino a giungere alle estreme conseguenze. E pensare che è stato fatto tutto solo per denaro. Ain't nobody's hero, but I wanna be heard. On your hot 9-7 every day, that's my word. Swimming in women with their own condominiums. 5+5s who drive millenniums. It's all about the Benjamins, what? I get a 50-pound bag for the mutts. 5 carats on my hands with the cuts. And something European cranked out with the clutch. Bro, what? Drinking more liquor, driving a bro bigger. I'm with Mo Sippers, watched by gold diggers. Rocking Bajor denims with gold zippers. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.